Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Il business legato ai flussi migratori e alla gestione dei campi di accoglienza è al centro del nuovo capitolo dell'inchiesta della Procura di Roma su Mafia Capitale. 44 le persone arrestate in 3 regioni e una ventina gli indagati, con accuse che vanno dall'associazione di tipo mafioso alla corruzione, turbativa d'asta e altro. In manette anche politici, fra loro Luca Gramazio, prima capogruppo del PDL in Consiglio Comunale e poi capogruppo del PDL e quindi di Forza Italia in Consiglio Regionale. Gramazio è accusato di avere partecipato all'associazione capeggiata da Carminati, che avrebbe favorito sfruttando la sua carica. Per gli investigatori centrale è la figura di Salvatore Buzzi, già coinvolto nella prima fase dell'inchiesta. La mucca deve mangiare per essere munta, dice il RAS delle COP sociali in una delle intercettazioni dei ROS. Colloqui da cui emergono i meccanismi dell'organizzazione. Noi siamo come taxi, si sente dire Buzzi in un'altra conversazione, ma se sali non scendi più. Il sindaco di Roma Marino intanto dice no alle dimissioni dopo la nuova ondata di arresti nella capitale. Ho fermato il malaffare. In questi giorni sembra cadere proprio a fagiolo, in prossimità di un risultato elettorale regionale che fa molto discutere la politica, la nuova ondata di arresti sulla cosiddetta inchiesta Mafia Capitale. Altre persone sono state arrestate, la politica è lambita in ogni parte, con una prevalenza di centrodestra, ma ce n'è per tutti, i nomi si rincorrono, c'è chi chiede le teste, c'è chi chiede le garanzie. Non mi interessa tanto esattamente chi siano le persone in campo nel fenomeno della cosiddetta terra di mezzo, quale sia la mucca da mungere, chi la mungesse, quante tette aveva la mucca, quante mani stringevano quelle tette e chi si dividesse il latte munto. Mi interessa far riflettere il pubblico questa mattina su una circostanza particolare e direi assolutamente nuova nel campo della malavita organizzata. Ormai parliamo di Mafia Capitale come fenomeno mafioso a sé, fenomeno assimilabile a tutte le precedenti mafie più conosciute. La mafia normalmente ha una capacità estrema di coinvolgere naturalmente gli apparati della politica, gli apparati delle istituzioni, per essere favorita nei suoi profitti illeciti, legati più o meno a quelli che sono i tradizionali campi, non so, della gestione del malaffare, della gestione del territorio, dello spaccio della droga, della tratta degli esseri umani, della gestione degli appalti per costruire strade che poi non servono a nulla, ponti che poi cadono, palazzi che poi tracollano e via dicendo. Questo fa parte, smaltimento dei rifiuti, quello che volete. La mafia romana, la mafia che sta proprio nel cuore dell'Italia, sta nel centro delle istituzioni, è collaterale comunque anche al luogo spirituale per eccellenza, almeno secondo la vocazione religiosa e confessionale tradizionale di questo paese, che è il Vaticano, ha una sua caratteristica. Affonda le mani in un settore che normalmente sembrava, almeno mi sembrava nella mia superficiale attenzione, non fosse quello tra i più redditizi, i più proficui per la malavita organizzata, che quello è il cosiddetto terzo settore, del sociale. Questi farabutti lucravano sugli immigrati, sui campi rom, sulle cooperative che gestivano anziani e disabili, addirittura sulla raccolta degli abiti usati che le persone mettevano negli appositi cassonetti gialli, molto tecnologici, con una specie di sistema di ribaltina in cui uno metteva il vestito e automaticamente andavano dentro, che tutte le persone animate da buona volontà andavano a riempire con i loro abiti ben stirati, puliti, mandati in tintoria, perché si pensava e si immaginava da quel sistema così perfetto da un punto di vista esteriore, poi la propria giacchina non più di moda, il pantalone che non entra più al ragazzo, andasse a una persona bisognosa, povera, che comunque aveva un oggetto decoroso per potersi coprire al di là delle sue possibilità. In realtà andava tutta nelle mani avide di questi quattro signori. Ecco, questa te vorrei riflettere su questa fattispecie. Come mai la mafia romana si occupava di qualcosa che in realtà sembrava un settore perlomeno incontaminato e incontaminabile dagli interessi della malavita organizzata? 800 24 0024. La gestione dei campi rom e soprattutto dei centri d'accoglienza per migranti a Roma è uno dei business più redditizi. La cupola, pilotata da Massimo Carminati, lo capisce e ci si infila senza esitazione. I profughi e i richiedenti asilo accolti nella capitale sono 2.581, che tradotto in soldi per quest'anno significa appalti per 42 milioni di euro da parte di Stato e Comune di Roma. un piatto ricco nel quale la Erikes 29 giugno si avventa con avidità, soprattutto se si tratta di minori. Ogni bambino infatti vale 91 euro al giorno contro i 38 dei maggiorenni, più i soldi per i pasti, sui quali, lavorando su grandi numeri come ricorda in un'intercettazione Carminati, i guadagni sono importanti. Il conto è presto fatto: 7 euro per 16.240 pranzi al mese per la sola struttura per i minori. Più ci sono il campo Rom, i 15 centri d'accoglienza. 800 24 00 24, ma vi siete accorti che c'è qualcosa di particolare sulla mafia romana rispetto a tutte le altre mafie? Questa mattina cercheremo di capire brevemente se è giusta la mia intuizione o in realtà è qualcosa che già si era visto. Vinicio Albanesi, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti voi. Senti, tu mi dai del lei, ti do del tu, ti conosco da tanti anni. Vinicio Albanesi è fondatore della comunità Capodarco. Vinicio Albanesi ha una storia lunghissima di persona che si è occupata attivamente appunto del sociale, del terzo settore. È anche un illustre e raffinato teologo, insegna diritto canonico, ha scritto un'infinità di libri, non potrei elencarli tutti, dico solo l'ultimo, Il sogno di una chiesa diversa, un canonista di periferia scrive al Papa, Ancora editrice del 2014, ma da tanti anni si occupa di sociale, se ne occupa attivamente, è anche tra i fondatori di Redattore Sociale, che è l'unica agenzia che concretamente, seriamente, ogni giorno informa sul sociale. Vinicio, una tua valutazione su quello che ho appena detto. Come mai queste persone hanno individuato un filone che risulta poi così redditizio, quando apparentemente tutti pensiamo che in Italia è un paese in cui nel sociale si spende pochissimo, hanno sempre il braccino corto quando bisogna spendere nel sociale, ma c'hanno tanti soldi? Tu non te ne eri mai accorto che giravano tanti soldi e non andavano alle istituzioni che realmente ne facevano buon uso? Beh, la situazione è molto diversa in Italia, Roma è un capitolo a parte. Però il meccanismo che si è inquinato ha inizio verso gli anni 80-90, quando gli standard per occuparsi di queste persone si elevano. Cioè tu apri una struttura, fosse anche la mensa dei poveri, ti dicono devi avere questo, la cucina deve essere a norma, le persone devono avere la certificazione, insomma si innesca una specie di occupazione della manodopera sia intellettuale che generica. Ma non era giusto questo, diciamo, portarlo a un livello tecnico e professionale, quello che era magari soltanto frutto della buona volontà di alcune persone? Per certi versi era giusto, però si è esagerato, perché intorno a un minore tu hai qualcosa come 4 o 5 figure che vanno dall'assistente sociale, lo psicologo, al neurologo infantile, all'educatore, alla cuoca, tutto questo ha prodotto un mercato. Un indotto immenso. E un indotto immenso sostenuto anche da una certa politica che dice che i servizi devono dare occupazione, soprattutto laddove le risorse produttive sono scarse, è l'intermediazione dei servizi. Quindi i costi si sono gonfiati oltre i limiti, ma per chi gestisce come me il budget di un servizio, il 60-70% se ne va per il personale. Quanto gestisci te più o meno nella tua comunità? Qui a Capodarco sì. 5 milioni. 5 milioni, di cui la parte la parte prevalente va in gestione del personale. Del personale, che sfiora il 60%. Ma tu potresti ridurre questi costi con una tua gestione? No. No, perché servono quelli, indubbiamente. Indubbiamente, perché quando firmi la convenzione, l'ente che te la firma, che sia la regione, o sia il comune, o sia l'ente pubblico centrale, ti dice tu devi avere A, B, C e D, fammi vedere le qualifiche e fammi vedere gli orari. Io su questo sono onestamente d'accordo, perché almeno c'è una regola. Ma mettiamo, ti faccio una domanda paradossale. Mettiamo che tu fossi di uno dei mungitori della mafia capitale e riuscissi a avere questa sorta di bocconcino prezioso, puoi gestire una grande comunità che funziona tutto alla luce del sole. Come potresti fare il tuo sporco guadagno? Dove andresti a occupare? Metteresti persone non qualificate? Le sottopagheresti? Dove metti i soldi in tasca? Ci sono due modi: o sottopagare gli operatori, riducendo... Non prenderli professionisti, quindi prende persone che non sanno fare... No, oppure fare contratti, che ne so, non a tempo determinato, non secondo le regole dei datori del mercato del lavoro, oppure truccando i numeri che tu fornisci. Invece di scrivere 15.000 passi, scrivi 18.000. È quello che è avvenuto a Roma, più o meno? Evidentemente, perché sono i due modi con cui tu sfuggi e puoi ingannare l'ente, perché non controllerà mai se sono 15.000 o 18.000 passi. Quindi gonfiare in maniera eccessiva il numero delle persone pro capite assistita, tanto era tanto, c'è cioè un euro a bambino, tanto a straniero, questi si fregavano le mani ogni volta che arrivava, c'era questa sorta di ipocrisia. Da una parte le amministrazioni si facevano belle perché erano aperte all'accoglienza, arrivavano tantissimi stranieri, profughi, immigrati, via dicendo, dall'altra in realtà era carne da cannone perché si distribuissero queste persone. Sì, non solo, poi c'è un terzo modo, che quello, in ogni convenzione c'è scritto che tu devi fare integrazione, devi insegnare l'italiano, devi fare una serie di operazioni. Queste operazioni non le fai, ti riduci a dare un piatto di pasta asciutta, un po' di pollo e il resto guardi a distanza le persone. Ed è il terzo canale. Quindi tu lucri sui servizi meno essenziali, facendo finta che fai la formazione, che dai... L'esempio classico, gli immigrati arrivano nudi, arrivano con una maglietta e un pantaloncino, e se tu, poi viene l'inverno, poi viene il riscaldamento, poi viene l'acqua calda, e se tu incominci a essere così ristretto nei bisogni loro... guadagni, recuperi sul personale, recuperi sui servizi, recuperi sul cibo, recuperi sulle utenze. Sentiamo Enzo. Enzo, buongiorno. Buongiorno. Sì, Enzo, niente. Riccardo. Riccardo. Pronto? Sì, eccomi. Ciao Gianluca, intanto ti ringrazio e mi fa piacere parlare con te. Niente, ascoltavo il tuo ospite, non mi ricordo il nome, ma Vinicio Albanesi, diciamo, una persona storicamente nota nel campo, diciamo, del trattamento dei problemi sociali. Guarda, sono perfettamente d'accordo con lui e fra l'altro ricalca quello che io ho detto prima quando ho telefonato, cioè che qui è mancata a Roma, ma in buona parte d'Italia è mancata la visione del controllo, ma del controllo sociale, cioè chi va a Roma, io abito a Milano, ma non è che Milano sia tanto diversa, perché se ti sposti ad Amburgo o a Monaco vedi già la differenza fra Monaco e Milano, fra Milano e Roma, vedi che è una città che è mal gestita. Roma, e parlo di Roma, ma anche Milano rispetto ad Amburgo o a Monaco è mal gestita. Allora se entri nella questa mala gestione e cerchi di chiederti il perché, puoi farti una domanda se questa mala gestione è dovuta a che cosa, e probabilmente a una gestione mafiosa. Perciò la mafia, come ho detto prima, è nella testa degli italiani, in una cattiva gestione del paese, del territorio, della cultura, e in un'omissione di controlli. Sì, scusami, Carlo, questo va bene in generale per qualsiasi attività mafiosa, ma io questa mattina mi piaceva puntare il dito sullo specifico di questo tipo di attività mafiosa. Oggi Vinicio ha detto cose che ancora normalmente non avevo molto letto in giro. Tutti giustamente ci strappiamo le vesti di fronte allo scandalo, alla politica coinvolta. Mi volevo capire quali erano i sistemi pratici, concreti, per sgrassare laddove nessuno avrebbe mai pensato che c'era materia di sgrassamento, che era appunto la gestione delle persone più bisognose, più infelici, più povere, più disperate. A tra un istante, dopo il traffico. Melog. Cronache meridiane. 800240024, stiamo in qualche maniera cercando di capire qual era il meccanismo tecnico per cui mafia capitale avesse trovato un nuovo sistema per lucrare, era quello di occuparsi delle persone più bisognose. Ho al telefono Vinicio Albanesi, che è il fondatore della comunità di Capodarco a Roma, ma è una persona che si muove, è un prete che si muove da decenni in questo campo e finora ancora nessuno l'ha mai arrestato, quindi evidentemente le cose le fa nella maniera giusta. Vinicio, però in questo meccanismo c'è una cosa che non mi sfugge. Quindi c'erano tanti soldi pubblici destinati, diciamo, al miglioramento delle condizioni di vita, le condizioni di salute, le condizioni di affrancamento dall'emarginazione di tanti esseri infelici. Quindi i soldi c'erano. La responsabilità però delle persone che sapevano benissimo, quando tu prendi una mazzetta e assegni l'appalto alla cooperativa che sai che ne farà carne di porco, è un doppio problema di coscienza. Primo, perché ti sei comportato disonestamente nel tuo ruolo pubblico, ma seconda, tu metti una pietra al collo a una persona che già stava affogando. Il meccanismo, prima di tutto, per fare chiarezza, fanno gli appalti. Gli appalti sono al massimo ribasso. Quindi c'è gente, ma questo avviene nel mondo del sociale, ma anche nell'edilizia pubblica, nella costruzione delle strade, il massimo ribasso. Quindi nel momento in cui tu partecipi, dici a te stesso, se ribassi tanto pur di avere... Non ci rientrerai mai? Ci rientri se poi usi termini scorretti, sia nei confronti del personale che nei confronti dei servizi delle risposte che devi dare. È come quando mettono poco cemento nelle fondamenta dei palazzi che fanno al ribasso, uguale. Bravo. Oppure se hanno dei locali, che ne so, poco utilizzabili, allora utilizzano... Perché poi il nostro popolo è un popolo anche strano. Io ho avuto molte richieste di persone che avevano delle case sparse e che mi dicevano, ma non possiamo metterci qualche neretto così recupero qualche lira. A ogni risposta con denaro pubblico si attiva una specie di mungere la grande mucca. Senti, entriamo nell'aspetto un pochino più pericoloso e vertiginoso. La politica. Qua vedo che ce n'è per tutti, dalle intercettazioni. Non è che le intercettazioni di mafiosi siano così attendibili, però ce n'è per tutti, anche le amministrazioni pubbliche più illuminate, per lungimiranza, per apertura, per destinazione di uguaglianza di diritti da parte dei cittadini, sembrano che siano state contaminate. Ma è proprio possibile che nessuno se ne accorgesse, o sicuramente nessuno si rendeva conto poi quello che era il danno fisico che si faceva in esseri umani? Perché io posso capire il truffare lo Stato e prendere contributi per costruire cattedrali che nessuno frequenterà, ma qua si parla proprio della pelle di esseri umani, cooperative di persone incapaci che gestivano anziani e disabili, la gestione di Rom, che è un problema grossissimo, ma che diventavano il pretesto per riempirsi le tasche di soldi. Ma perché non c'è un pedigree in questo mercato? E qualsiasi soggetto che dice di avere una cooperativa, che magari non ha ancora costituito, ha costituito sulla carta, un imprenditore che ha un albergo che funziona male, un qualsiasi soggetto può presentarsi con le regole generiche della propria storia e si presenta all'appalto. Cioè non è che si discrimina e si dice tu chi sei, che hai fatto, che tipo di attività hai svolto, qual è stata la tua esperienza. No, e nell'emergenza si mettono tutti, quindi cooperativa A, B, C e D, naturalmente ci mettono le cooperative di tipo B con qualche persona disagiata e tu partecipi e lì diventa una gara che viene affidata alla coscienza poi di chi gestisce i grandi numeri, perché io sono onesto, se non altro perché ho un nome da difendere da tutelare per la missione, per una serie di motivi, ma chi fa l'imprenditore a basso costo, come stanno emergendo le situazioni romane, qualsiasi, la parola è brutta, ma qualsiasi delinquente può partecipare alla parte. Sentiamo Luigi velocemente, la tua esperienza di lavoro in una cooperativa no profit. Sì, veramente è una cosa allucinante. Questi fanno fatturati da 2 milioni e passa di euro alcune per il recupero degli indumenti, quei bei cassonetti gialli dove andavano a raccontare che poi li destinavano ai poveri, invece vengono venduti per i mercati di Napoli, recupero dei toner, tutta roba che non gli costa niente, telefonini. Ma adesso ultimamente hanno adottato anche un'altra bella politica. Prima avevano metà personale, diciamo così, nazionale, italiano, e metà, giusto per essere delle cooperative sociali, no, praticamente straniero. Adesso gli italiani li hanno cacciati tutti perché avevano dei contratti che costavano troppo. È meglio prendere il negretto a 350 euro al mese. Guardi, purtroppo il tempo a mia disposizione è finito. Io vorrei tornare con Vinicio, però questo argomento voglio tornarci. Tornerò proprio la prossima settimana, perché non abbiamo certo esaurito qui. È qualcosa da capire con chi ha gli strumenti tecnici per farci capire. Alla prossima allora, grazie Vinicio.